Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Forsake me. I'm loving angels instead. Volto ombroso. Una lunga passeggiata solitaria in una città in bianco e nero. Qualche flash in cui vede lei. E poi sterminati campi mossi dal vento. Un mare invernale. E Robbie Williams, che dolce vita e cappotto doppio petto, canta che si sta innamorando di un angelo. C'è tutto quello che serve per far piangere ragazzine e non solo nel video di Angels. Studiato a tavolino? Sicuramente. Ma la canzone, comunque, che ne dicano i detrattori, è diventata un classico. I think the first day we wrote Angels. La prima volta che abbiamo buttato giù Angels è stato abbastanza uno shock, perché è stato uno di quei colpi che vengono una volta, subito. E il suono era praticamente già quello definitivo. È stato incredibile. La leggenda vuole che ogni sera prima del concerto la simpatica canaglia Williams raduni tutti e dica come buon auspicio una preghiera di Tommaso Moro, ma diretta per l'occasione al rocker di Memphis. Caro Elvis, per favore dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza. Esibizionista per natura, talentuoso performer, eccentrico e problematico. Tutto questo e molto altro è questo ragazzo inglese di cui oggi, ai Magnifici Destini, vogliamo raccontarvi la storia. Una storia fatta di incontri decisivi, di svolte senza ritorno, di successi e di dolori. Questa è la storia di Robbie Williams. Febbraio 2007. Nel giorno del suo 33esimo compleanno, un Robbie Williams ancora giovane ma già stanco decide di farsi ricoverare in una clinica specializzata in disintossicazione perché sta prendendo troppi farmaci. Il cocktail micidiale che assume ogni giorno lascia in effetti sbigottiti. Antidepressivi, pillole per dormire, qualcosa come 30 caffè, 20 lattine di bibite energetiche a base di caffeina, almeno 2 pacchetti di sigarette. Non è la prima volta che lotta contro la depressione, ma oggi, dopo avere annullato le date del sud-est asiatico del suo tour mondiale per eccesso di stress, è determinata a uscirne. Byronie Watts, la sua portavoce, fa sapere che la situazione è difficile e bisogna che Robbie si dia davvero una calmata. La tragedia, l'ultima volta nel 2004, l'aveva evitata grazie all'amico Elton John, che lo ha invitato a guardarsi allo specchio. Per colpa delle droghe il suo corpo si stava trasformando. E non è un caso se il permaloso Liam Gallagher, frontman degli Oasis, per ripicca nei suoi confronti dopo uno screzio, aveva cominciato a chiamarlo davanti al mondo intero il ballerino obeso dei Take That. È una storia molto interessante, lo è stata per i giornali. Quello che posso dire io è che Elton è un caro amico, una persona molto attenta, che si è preso cura di me ed è arrivato a rapirmi per portarmi in clinica. Il programma di recupero stavolta è davvero duro, ma Williams, miliardario infelice, è intenzionato a portarlo a termine. Ogni sera, rimasto solo, siede sul letto di una camera piuttosto anonima e guarda fuori dalla finestra. Il buio impedisce di vedere, ma quando il presente è scuro, come sempre sono i ricordi a fare compagnia. It's overrated, just get another drink and watch me come on down. Revenge will be so sweet. Quella di Robbie Williams è un'infanzia piuttosto comune, trascorsa in una città della provincia inglese abbastanza grande per non annoiarsi, ma troppo piccola per chi ha grandi sogni. Stoke-on-Trent, è così che si chiama, si trova nel cuore dello Staffordshire. Ci deve essere qualcosa di speciale nell'aria perché qui sono cresciuti molti grandi della musica. Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, il leader dei Motorhead Lemmy Kilmister e perfino Murdoch Nichols, il bassista della cartoon band dei Gorillaz, almeno nella fantasia del suo creatore Jamie Hewlett. Nella mia città ci sono diversi musei d'arte e artigianato. Da piccolo non me ne importava granché, ci passavo davanti e sapevo che c'erano, ma non mi sarebbe mai venuto in mente di entrare. Invece ricordo che mia madre mi portò al Gladstone Pottery Museum e mi era piaciuto molto. Si può vedere come si viveva in epoca vittoriana, un periodo che mi ha sempre affascinato. Troppo lungo il nome di Williams per non essere accorciato come da tradizione. Robert Peter, a cui più tardi lui stesso avrebbe aggiunto Maximilian, diventa presto semplicemente Robbie. A scuola scopre la sua natura, con la sua prima imitazione di John Travolta nella Febbre del sabato sera. Fa ridere tutti, si diverte a fare il buffone e di studiare neanche a parlarne. Partecipa agli spettacoli di teatro e gli piace da morire. Hey, what's you, Steve, in it? Ain't she never seen a Jesus? Da qualcuno ha preso. Suo padre, una celebrità locale, si esibisce regolarmente come stand-up comedian al Jolly's, un locale della città. Lo chiamano nelle feste, quando organizzano le serate negli hotel. Lui prepara la sua piccola valigia con dentro il necessario e va in scena, felice ogni volta di raccontare barzellette e inventare gag. Sua moglie non approva pienamente, non ha voglia di rimanere sola in casa coi ragazzi ogni sera, cerca un po' di stabilità. Anche perché, quando non è sul palco, suo marito, Pete, gestisce un pub, il Red Lion, che assorbe tutto il suo tempo. E così, litigio dopo litigio, si arriva al divorzio. Robbie e sua sorella vanno a vivere con la madre. Beh, non posso dire che sia stata durissima, perché ero molto piccolo e i miei genitori non ci hanno fatto mai mancare nulla. Però, sai, papà lo vedevamo pochissimo. Forse è stato anche per quello che ci siamo accorti poco della differenza. Il giovane Robbie Williams è un piccolo talento della recitazione e i suoi insegnanti ne riconoscono il valore affidandogli sempre ruoli da protagonista nelle recite. Appena l'età glielo consente, la futura pop star entra a far parte di una compagnia di teatro amatoriale. Impressionante il suo carisma. Fa tutto, balla, canta, fa monologhi e in tutto è convincente. A scuola però va malino e non ha molte alternative. A 16 anni deve cercarsi un lavoro. Il suo curriculum è scarso, non ha esperienza in nessun campo. Ma lui bussa fiero a ogni bar, ristorante, negozio del centro, certo che prima o poi qualcuno che ha bisogno di una mano lo troverà. Sembra di vederlo, con la stessa aria spavalda di oggi che è una star, andare in giro a proporsi ammiccando come al solito alle ragazze che incontra. Il copione si ripete ogni volta. Robbie ha quel sorriso da monello che conquista le figlie e fa simpatia alle madri, almeno prima che il cuore delle loro bambine venga puntualmente spezzato. Ed è già uno che sogna in grande. Nell'ultimo decennio l'aspirazione alla fama ha assunto un che di inquietante. Invece una volta era diverso. C'è stato un tempo in cui si diventava famosi se si era bravi in qualcosa o se avevi ammazzato qualcuno. Un martedì qualsiasi dell'estate del 90, Robbie torna a casa dal lavoro e come suo solito si spoglia camminando, spargendo i vestiti sul pavimento prima di entrare in doccia. Sua madre normalmente lo lascia fare, ormai ha smesso di combattere con il suo disordine, quasi lo ignora continuando con quello che sta facendo. Stasera però lo sta aspettando con l'eccitazione di una ragazzina mentre seduta al tavolo con il giornale aperto davanti si mangia le unghie per l'impazienza. Non appena lui entra, gli salta al collo per mostrargli la pagina con un annuncio cerchiato di rosso. Stanno cercando un ragazzo per una boy band ancora da lanciare. Le audizioni sono aperte, lui sarebbe perfetto, deve assolutamente provarci. Robbie non deve neanche pensarci. La sua immaginazione corre già lontanissima. Volevo una Porsche bianca. Volevo la possibilità di passare a prendere gli amici con una Porsche. A parte quello non ci avevo riflettuto un granché. Cosa c'è di male a desiderare una cosa del genere? Non è che avessi davanti un futuro particolarmente interessante. Ti dirò, A scuola il tutor per la carriera mi aveva consigliato di reclutarmi nell'esercito. Secondo te avrei dovuto dargli retta? Sorry, I get hysterical, historicals. If love is just chemicals, give us something to stop me. Only you know me. You Know Me è uno dei tanti singoli in cui Robbie Williams si diverte a stupire travestendosi nel video da coniglio gigante. D'altronde, il trasformismo è il suo marchio di fabbrica e il gioco un suo costante piacere. Eccentrico, trasgressivo, ma anche tanto autoironico, il suo destino comincia quel giorno del 1990 in cui, dopo aver letto un annuncio sul giornale, prende il treno per Manchester e si presenta all'audizione per diventare membro di una nascente boy band. Boy band. Da definizione, un gruppo di ragazzi che cantano e ballano e non necessariamente suonano. Una formazione studiata generalmente a tavolino perché possa contenere tutti gli ingredienti del successo: pop, moda, bell'aspetto. In poche parole, tutto quello che fa correre le ragazzine. Quando entra nell'enorme sala dove sta per svolgersi il casting, Robbie Williams è un ragazzino sicuro di sé che prende in giro gli esaminatori e in pochi minuti ha già stretto amicizia con tutti. Sono suoi rivali, è vero, concorrono tutti per lo stesso ruolo, ma questo a lui non importa. È fatalista, andrà come deve andare, non sarà certo una rivalità forzata a cambiare in meglio il suo destino. Con lui ha una lettera di presentazione che l'annuncio richiedeva. Stava per non scriverla per pura pigrizia, ma poi sua madre ha insistito e penna alla mano si è ritrovata a buttarla giù quasi interamente al suo posto. Robbie ha aggiunto soltanto una frase, lapidaria, lucidissima. Ho un'unica ambizione, diventare famoso. Nigel Martin Smith, manager e produttore, sta tentando di spostare il baricentro della musica inglese da Londra a Manchester. Ha già lanciato Damien, un artista balzato in testa alle classifiche con una cover di The Time Warp, e ora pensa in grande. Sull'onda del successo dei New Kids on the Block, boy band made in USA, vuole costruire un esperimento altrettanto fortunato ma al 100% britannico. Quattro nomi ce li ha già, gli manca solo il quinto componente della band. Per questo ha messo l'annuncio sul giornale. Cerca un ragazzo carino ma qualunque, simpatico e nel quale identificarsi. Deve saper cantare e ballare, non molto altro, e naturalmente saper stare su un palcoscenico. Mi è bastato vederlo per capire che Robbie era quello che stavo cercando. Di certo si capiva già che aveva un carattere difficile, ma io volevo lui. Sentivo che era perfetto. Robbie sarebbe stato il quinto Take That. Nel 1990 i Take That sono pronti per sfondare. Il manager che ha creato il gruppo a tavolino, Nigel Martin Smith, è determinato a replicare il successo americano dei New Kids on the Block, proponendo una band tutta al maschile. Cinque volti freschi, giovani, carini. Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange e poi i due che si contendono lo scettro di leader, Robbie Williams e quello che è il suo primo magnifico incontro del destino, Gary Barlow. Per un lungo periodo proprio non potevo sopportare Gary. Continuavo a vederlo così, come mi era sembrato quando era più giovane. E anche passata la rabbia, quell'atteggiamento, è diventato parte del mio personaggio. Una specie di riflesso incondizionato. Non sono un santo, sono un essere umano. Chiedere scusa non è una cosa che viene naturale. Per me è stato difficilissimo. Lui era parte della mia adolescenza infelice. Stabilire le colpe di uno e dell'altro, soprattutto a distanza di anni, è tanto complicato quanto inutile. Di certo però questi due ragazzi che si sono ritrovati giovanissimi in vetta alle classifiche mondiali, con le coetanee adoranti ovunque ai loro piedi, si sono scontrati fin dall'inizio. Ribelle ed esagerato Williams, calmo e riflessivo Barlow, sono troppo diversi per andare d'accordo. Soprattutto quando in palio c'è l'essere il vero leader del gruppo. E l'ego si mette di mezzo. Gary, come Robbie, proviene dalla middle class inglese, ma non è entrato nella band per caso. Ha sempre rivendicato una professionalità, sa suonare, e prima di entrare nei Take That, si è esibito a lungo nei locali intorno a Frodsham, piccola cittadina del Cheshire, dove è nato e cresciuto. Al contrario di Robbie sfrontato e permaloso, Gary è il classico ragazzo per bene che fa la cosa giusta, bravo in tutto. Gary è un musicista vero, scrive i testi delle canzoni e compone, ma in quanto a carisma Robbie non lo batte nessuno. Per restare negli anni 90, un'altra icona pop generazionale, il telefilm Beverly Hills 90210, lo scontro è tra i maledetti Robbie e Dylan contro i perfettini Gary e Brandon. Il pubblico di ragazze è diviso a metà e ci vorranno anni prima che i due facciano pace e cantino ancora insieme. Io e Robbie eravamo due Wayne Rooney nella stessa squadra. Era inevitabile che ci separassimo. Solo che lui è andato a giocare nel Manchester United e io nel Chesterfield United. È strano perché oggi siamo due persone diverse da quelle di allora. Mi ero lasciato incantare dalla cosiddetta cultura del giovane maschio. In quegli anni, per essere figo, dovevi essere come gli Oasis. Bere, passare da un letto all'altro, odiare tutto e tutti. Per un po' è stato divertente. Ma non mi sono fermato in tempo. E mi sono lasciato trascinare. Mi sono buttato via. Alla fine ero incastrato in un personaggio e gli insulti a Gary facevano parte del copione. I media hanno alimentato la polemica. Da noi giornali e TV sanno essere molto cattivi. Ti ammazzano. Ai magnifici destini stiamo raccontando la storia di un bad boy della musica inglese, Robbie Williams, alle prese con il suo primo magnifico incontro del destino, quello con Gary Barlow. I due, all'inizio degli anni 90, si contendono lo scettro di leader dei Take That. Inutile negarlo. Nell'avventura della boy band più famosa di tutti i tempi, Gary Barlow è la figura fondamentale. Gli altri, Robbie Williams incluso, sono l'immagine della band. Ma Gary è la vera anima artistica. La maggioranza dei brani incisi porta la sua firma e la sua voce. Non sono successi costruiti a tavolino come la formazione, è merito del suo talento. Questa consapevolezza acquisita nel tempo rende Barlow sempre più sicuro di sé. Il suo atteggiamento un po' da secchione fa il resto e la difficile gestione della popolarità porta alla nascita di tensioni e dissapori. Il più agguerrito, neanche a dirlo, è proprio Robbie, da sempre una scheggia impazzita, che non ci pensa troppo su e nel 1995 lascia la band. I am now free artist. Io andrò avanti da solo. Lavorerò con il mio manager e con la mia casa discografica. Devo trovare me stesso, trovare la mia strada. Capite cosa intendo? La dimostrazione che senza il figliol prodigo il gruppo non regge, Gary ce l'ha poco dopo. A nulla vale la sua bravura. Il 13 febbraio del 1996, curiosamente proprio il giorno del compleanno di Robbie, i Take That annunciano lo scioglimento con una conferenza stampa tesissima che fa il giro del mondo. Fan disperate, pianti, urla. Dopodiché, mentre Robbie comincia la sua fortunata carriera da solista, Gary praticamente sparisce. A quell'epoca vivevo nel Cheshire e facevo avanti e indietro da Londra con il treno. Di solito mi camuffavo con un cappello e tutto il resto. Ero sovrappeso e non mi sentivo un granché. Mi sentivo in imbarazzo ad essere me stesso, ad essere riconosciuto dalle persone. No, non c'entrava il non essere più famoso o il non registrare più. Era che non c'era nessuno che avesse bisogno di me. Il telefono non squillava, niente da fare. Ribelle e sfrontato, Robbie Williams non ha peli sulla lingua. Per questo non poteva tacere nei Take That. Per questo nel 96 tenta una nuova carriera da solista. Tutto quello che faccio, lo faccio per me. Le canzoni che scrivo, tutto. Ma è così per tutti. Tutti cercano una forma d'amore. Cercano che il mondo li ami. Ma questa è la mia vita. Sì, d'accordo, sono contento se quello che faccio piace, ma lo faccio per me. Capisci? Non è tutto rose e fiori, anzi, la stagione sesso, droga e rock and roll mette seriamente in pericolo la sua salute. Il fisico che tanto piaceva alle ragazze aumenta di ben 18 kg e lui si fa spesso vedere in giro vestito male, sporco, con la barba incolta. Ma c'è un episodio in particolare per cui la critica incomincia a decretare la fine, prima ancora del suo inizio, della carriera di Robbie solista. È l'ultimo weekend di giugno del 95 e a Pilton, nel Somerset, Inghilterra, si tiene come ogni anno il Festival di Glastonbury. Nel ricordo della sua origine hippie, i ragazzi si accampano per 3 giorni sull'erba, si godono gli spettacoli di musica, danza e teatro e si affrettano a nascondere la droga non appena intravedono la polizia. In molti c'erano anche 5 anni prima, nell'evento che tutti si ricordano, quando la violenza tra le guardie e i nomadi New Age aveva portato ad annullare l'edizione del 91. Ma adesso l'attenzione è tutta per gli Oasis, che proprio qui avevano esordito nel 94 e che ora stanno mettendo in scena una performance degna di entrare nella storia. Durante l'esibizione degli Oasis, Robbie Williams si presenta sul palco. È grasso, visibilmente fuori di sé. E tra lui e Liam Gallagher scoppia una lite furibonda subito ripresa da tutti i media. È da questo momento che il leader degli Oasis comincia a definirlo di fronte al mondo Fat Dancer, il ballerino grasso dei Take That. Robbie rilancia con una sfida, 100.000 sterline in beneficenza per fare a botte con lui. Sfida mai accettata. È un destino che per Williams sembra segnato: alcol, droghe e oblio. Finché, sbalordendo tutti, esce il suo primo singolo da solista, Freedom. La cover dell'omonima canzone di George Michael, che rilancia ufficialmente Robbie Williams nel mondo della musica. Deciso a rialzarsi da una stagione pericolosa, il ragazzo di Stoke-on-Trent va in clinica a disintossicarsi. Avevo toccato il fondo. Non riuscivo più a vivere, continuavo a bere, a prendere roba, ma credevo ancora in me e nella mia musica. E così mi sono rimboccato le maniche e sono ripartito. Volevo diventare vecchio prima di morire. Così è nata la canzone. È a questo punto della vita di Robbie Williams, dopo la sua prima cura disintossicante, che avviene il secondo magnifico incontro del suo destino. Lui è un raffinato musicista e paroliere, e per la carriera dell'ex Take That è la figura mancante. Si chiama Guy Chambers. Quando abbiamo scritto Angels, io ero nella mia stanza da solo con davanti il piano e stavo improvvisando. Robbie è entrato nella stanza e ha cominciato a cantare quello che gli passava per la testa, così, senza strumenti. E io gli ho detto: wow, sembra buona, cantala ancora. E lui ha continuato. Così è nata Angels. Quando si dice un talento precoce, Chambers ha cominciato a interessarsi alla musica fin da bambino e ha sempre amato, mentre gli amichetti andavano fuori a giocare, radunare tutti in salotto per far sentire quello che aveva appena imparato. Dai dischi, soprattutto, ma anche dagli spartiti. Fatto sta che la prima occasione di esibirsi ufficialmente a Londra, la sua città, di fronte a un pubblico vero, arriva quando ha solo 11 anni. A 15 compone ed esegue un'intera opera rock per la sua scuola. E a 18, dopo aver studiato a lungo composizione e pianoforte presso la Guildhall School of Music di Londra, vince un importantissimo premio in ambito musicale. Intanto inizia a registrare le sue canzoni e si esibisce con la sua prima band, The Barlow Brothers. Adora la sera salire sul palco e sentire il rumore del pubblico che comincia a scaldarsi mentre si preparano gli strumenti. Lui li incita, esorta le prime file a battere le mani per tenere il ritmo, si sente una rock star, anche se la sua vena compositiva lo porta spesso a ritirarsi in soffitta per lasciarsi ispirare da un pavimento e da scaffali pieni di cianfrusaglie. Dopo la laurea, segue come tastierista il tour di vari artisti, tra cui Julian Cope and the Waterboys, prima di entrare nei World Party nel 1986 e nei Lemon Trees nel 1992 fino allo scioglimento nel 95. Per Robbie Williams e Guy Chambers, legati da un magnifico destino, il 1995 è un anno cruciale. Il primo, arrabbiato e stanco di litigare con il resto del gruppo, lascia i Take That. Il secondo vede sciogliersi i suoi Lemon Trees, con cui ha fatto un solo album. Mentre Chambers continua a dedicarsi alla sua amata musica, per Williams è il momento di fare i conti con se stesso. Ho conosciuto Guy fuori dalla clinica dove mi stavo disintossicando. Lui mi è piaciuto fin da subito, bravissimo a comporre, calmo, rassicurante. Era quello che mi serviva in quel momento, qualcuno che mi desse un po' di serenità. Grazie a Guy Chambers, per Robbie Williams incomincia una seconda vita, una vera e propria rinascita emotiva e professionale, trainata da singoli destinati ad avere un successo planetario. Angels, naturalmente, votata miglior canzone degli ultimi 25 anni dagli ascoltatori della BBC Radio, ma anche Freedom, Old Before I Die, Let Me Entertain You e Life Through a Lens, che dà il titolo all'album che le contiene tutte, prodotto proprio da Chambers. Le vendite di Life Through a Lens, in cui al talento di Williams si unisce il felice zampino di Chambers, si impennano fino a raggiungere le vette delle classifiche di tutta Europa. E il 1997 è nata una nuova star. È così che è cominciata la nostra collaborazione. Abbiamo capito subito di essere affiatati. Robbie è il carisma in persona, L'ho sempre un po' invidiato per come sa stare sul palco. E a lui probabilmente serviva uno come me. Sono due i magnifici incontri del destino che hanno segnato la vita e la carriera di Robbie Williams. Quello con Gary Barlow, compagno nei Take That, e quello con Guy Chambers, prolifico autore e compositore grazie a cui Williams ha esordito da solista. Life Through a Lens, il suo primo album, grazie a singoli come Angels, svetta per un bel po' in cima alle classifiche, promosso da un vero e proprio animale da palcoscenico che non si fa mancare nulla. Interviste irriverenti, travestimenti, parodie, trasgressione. Lunatico e spesso infelice. Nel 98 il bad boy che ha fatto scoppiare la boy band più famosa di tutti i tempi è quindi pronto per un disco nuovo. Esce I've Been Expecting You, anticipato dal singolo Millennium, cui segue No Regrets. Guy, dopo il primo progetto, mi ha dato ancora fiducia e ha prodotto I've Been Expecting You. Con quel disco abbiamo fatto più o meno 5 milioni di copie. Con She's the One, Robbie si riaccalappia pianti e commozioni varie delle sue fan nuove e vecchie. La storia della ballata è più o meno questa. I World Party di Carl Wallinger e Guy Chambers pubblicano nell'86 Private Revolution, poco più di una registrazione casalinga che però ha un discreto successo sia di critica che di vendite. L'album contiene una traccia che passa in sordina, proprio la nostra She's the One. Chambers, quando comincia a lavorare con Robbie Williams, gliela vuole cedere perché ci faccia una cover, anche se la canzone sarebbe destinata a una colonna sonora. Per farla breve, vince Chambers e nelle mani dell'ex Take That il brano diventa una hit mondiale e conquista due Brit Award, Single of the Year e Best British Video. Ce n'è abbastanza per far giurare a Robbie amore eterno a Chambers. E invece no. Con Guy andava benissimo, ma ero in cerca di ispirazione per il nuovo album. Volevo continuare a lavorare con lui, ma avevo anche bisogno di altri stimoli. Robbie Williams è in studio da solo e lascia che il tempo passi mentre fa girare una penna tra le dita quasi fosse un virtuosismo. Ha chiesto ai tecnici di andare in pausa, ha bisogno di raccogliere le idee. Si infila le cuffie e fa partire la musica, quella degli altri, non la sua, che lo distrarrebbe troppo. Passa qualche pezzo dei Duran Duran delle origini, quando Simon Le Bon era appena arrivato nel gruppo. Robbie chiude gli occhi, fa un salto negli anni Ottanta. I capelli lunghi, le camicie improbabili, le luci psichedeliche. Riconosce alla band la capacità di avere un fortissimo impatto visivo, la cosa che lui ricerca costantemente, che a dire la verità gli viene sempre così bene. Attraverso il suo manager fa contattare uno dei componenti iniziali della leggendaria formazione. È il suo terzo magnifico incontro del destino, quello con Stephen Duffy. To stand as a reminder of what Stephen Duffy, inglese di Birmingham, è un personaggio incredibile. Cantante, autore di testi, polistrumentista, ha passato la vita a fare il musicista di band e il solista, cambiando continuamente pseudonimo, da Ten Ten a Dr. Calculus. Troppo originale per non piacere a un tipo come Robbie Williams, che in lui vede una vera e propria icona del trasformismo. The first time I met him... La prima volta che ho incontrato Robbie è stato quando ha cantato Freedom a Top of the Pops. Ho subito pensato che sarebbe stato molto bello scrivere qualcosa insieme. Immaginavo una cosa alla Lennon McCartney. È stato bello quando ci siamo trovati. Ho cominciato a scrivere le canzoni del nuovo album con Stephen Duffy e ci siamo messi lì a capire come potevamo lavorare insieme, come potevamo contaminare i nostri due mondi. Il fatto è che avevamo voglia di scrivere insieme. È l'inizio degli anni 2000, nuovo millennio, nuova pagina da scrivere. Eccoli lì, i due eccentrici inglesi che cercano di concentrarsi da Robbie in una cucina tanto pretenziosa da apparire hollywoodiana, tra una tazza di caffè americano e l'altra. L'ex Take That, che si lascia andare a qualche confidenza con una persona che può capirlo perché ha alle spalle un percorso simile. E Duffy, che serissimo tira fuori orgogliosamente delle vecchie foto che adesso lo fanno sembrare piuttosto ridicolo. Ma alla fine il singolo esce. È Radio, perfetto per lanciare un Greatest Hits. Con un successo alle spalle così travolgente è difficile replicare. Forse, pensa Robbie tra sé e sé mentre si mangia le unghie nervosamente sul suo divano di pelle, non era ancora tempo di fare uscire un Greatest Hits dopo una carriera da solista tutto sommato così breve. Qualche dubbio ce l'ho avuto anch'io quando stavamo scrivendo l'album. Fare un Greatest Hits a 30 anni? Però era così divertente lavorare con lui. Faticoso e divertente. 18. I paesi in cui è in vetta alle classifiche. 2. Milioni di copie vendute nel solo Regno Unito. 61. La posizione nella classifica degli album inglesi più venduti di tutti i tempi. 6. Dischi di platino. Sono bastati, si fa per dire, questi numeri a rassicurare Duffy e Williams. Per il Greatest Hits del bad boy inglese non ci poteva essere un momento migliore. I'll be misunderstood. I magnifici incontri del destino di Robbie Williams non si perdono per strada. Come delle impronte indelebili, ritornano a farsi vedere periodicamente. E allora eccolo che canta con i Duran Duran, che si cimenta in un duetto ispirato per le fan con Gary Barlow, che scrive di nuovo canzoni con il suo paroliere Guy Chambers, sempre sull'orlo del precipizio, eternamente in bilico tra l'autoironia e la distruzione, tra l'eccesso e il dolore. In attesa di un nuovo album, in attesa di nuovi magnifici destini.